Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Anche questa mattina i numeri ci mettono di fronte alla difficoltà che le famiglie italiane incontrano nel progettare, nel pianificare le proprie spese, i propri investimenti, che possono rappresentare anche la realizzazione di un sogno e una maggiore sicurezza per il futuro. Il contesto che rappresenta indubbiamente in misura maggiore questo aspetto della crisi è il mercato immobiliare. Ieri i dati dell'Agenzia del Territorio ci hanno confermato come sempre più italiani, per motivi differenti, rinuncino all'acquisto della casa. Nel primo trimestre di quest'anno si è registrato un pesante calo appunto delle compravendite nel settore residenziale, meno 19,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il complesso del mercato è sceso di quasi il 18%, meno 17,8%. Pesa la difficoltà a sostenere le spese di tutti i giorni, quindi sacrifici sempre più forti per le famiglie. Quindi figuriamoci come ci si possa immaginare di diventare proprietari immobiliari. La disoccupazione che cresce, ma anche il livello dei prezzi delle case, che fino ad ora perlomeno non ha mostrato grandi segni di cedimento come invece è successo in altri paesi del globo. E non dimentichiamo neanche l'aspetto importantissimo relativo al credito con le banche, che sono sempre più asciutte nell'erogare un mutuo, e oltretutto le condizioni anche per chi lo ottiene sono sempre più severe. Allora noi oggi parliamo di tutto questo a Salva Danaio con un gruppo di esperti e soprattutto di osservatori del mercato, di operatori del mercato, ma vorremmo soprattutto sentire le vostre testimonianze all'800 24 0024. Voglio sapere se di recente è saltata una compravendita in casa vostra, se avevate immaginato di diventare proprietari immobiliari a breve, quali sono le motivazioni per cui avete rinunciato, perché l'operazione è saltata, sia se siete degli acquirenti o possibili acquirenti, sia anche se siete dei venditori, avete rinunciato a mettere sul mercato il vostro immobile, perché? Perché naturalmente immagino questo è un motivo grande di blocco appunto delle compravendite, ma in realtà adesso anche di crollo. Il motivo è che chi ha acquistato chiaramente qualche anno fa, quando il mercato era sui massimi, adesso dovendo, se ha bisogno di farlo, magari a qualcosa rinuncia, ma se non ha bisogno di mettere sul mercato l'immobile, è chiaro che vorrebbe rifarci il prezzo pagato quando l'immobile lo ha acquistato. Quindi sono tutti aspetti che commenteremo con voi questa mattina, ma non solo, anche con Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Presidente Righi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che ci tiene molto soprattutto questa mattina a dire la sua sugli interventi che avrebbe potuto fare un po' di più, magari un po' più coraggiosi. Il decreto sviluppo approvato venerdì scorso dal governo, c'era un pacchetto previsto in realtà inizialmente a sostegno anche del settore immobiliare, che poi si è andato ridimensionando notevolmente. Saluto anche Paola Gianasso, responsabile mercati esteri di Scenari Immobiliari, poi non perché vogliamo parlare anche dei mercati degli altri paesi, ma magari un confronto potrebbe essere anche utile. A dottoressa Gianasso ci darà anche la fotografia di scenari immobiliari sul mercato domestico. Dottoressa Gianasso, buongiorno. Buongiorno. E grazie anche a Bruno Vettore, amministratore delegato di Tree Real Estate, la holding che racchiude Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professione Casa. Vettore, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e agli altri ospiti. Allora, io ho ricordato quali sono le modalità per intervenire in diretta agli ascoltatori, le conoscono benissimo, il numero verde lo sapete, l'800 24 0024. Se volete però ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete andare anche sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Già da ieri qualcuno ci ha scritto, come sempre il giorno precedente alla trasmissione anticipiamo l'argomento del quale ci occuperemo nel giorno successivo, e chiaramente in molti hanno segnalato le problematiche che impediscono un acquisto sereno magari della casa dei propri sogni. Poi c'è tutto il comparto che riguarda l'investimento nel settore immobiliare, non come acquisto della nostra prima abitazione, ma magari come acquisto della nostra seconda casa. Non ci fidiamo più della borsa, il bot che è finito sulle montagne russe non ci rende sereni, allora magari si ritorna a guardare al mercato immobiliare. Ma anche lì, con l'IMU che sulla seconda casa è particolarmente pesante, perché sulla prima casa, dobbiamo dircelo con grande franchezza, non è che per tagli anche ragionevoli come sono quelli dove abitano le famiglie del nostro paese, il peso appunto di questa nuova imposta sia elevatissimo. Scoccia pagarla, perché lo capisco, però è sulla seconda casa che la batosta è stata molto importante, per cui se avete guardato alla casa, al mattone come investimento, vi siete tornati indietro nella vostra decisione, perché anche l'IMU, la reintroduzione della vecchia ICI, vi ha disturbato. Quindi raccontateci tutto questo. Prima di tutto però, Paola Gianasso, volevo che mi raccontasse se scenari immobiliari, come scenari immobiliari commenta i dati dell'Agenzia del Territorio, anche se poi noi conosciamo in realtà i risultati di molti monitoraggi che vengono fatti periodicamente sul mercato immobiliare del nostro paese. Quello che fa l'Agenzia del Territorio è banalmente contare i contratti che vengono stipulati mese per mese, no? E quindi questo è il bilancio dell'ultimo trimestre considerato. Scenari immobiliari riscontra che ci sia una situazione di tale difficoltà nel nostro paese in questo momento per quello che riguarda le compravendite? Ovviamente non le chiedo di contraddire i dati di Agenzia del Territorio, ma che cosa riscontrate voi in questo momento? Ma dunque, secondo il nostro punto di vista, la situazione è sicuramente critica, ma meno drammatica rispetto a quello che emerge dai dati dell'Agenzia del Territorio, nel senso che effettivamente il primo trimestre 2012 ha registrato un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma in realtà il calo c'era già stato nei due trimestri precedenti, quindi diciamo che l'ultimo trimestre del 2011 era già sceso di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e questo trend è stato confermato poi anche nel primo trimestre 2012, e anche il secondo trimestre si colloca in leggero calo. Quindi è sicuramente una tendenza in calo, ma va ridimensionata considerando che il calo si era già evidenziato nei due trimestri precedenti. Senta, avete già così commentato quelle che potrebbero essere le possibili soluzioni per poter far cambiare questo andamento, no? Che cosa servirebbe secondo lei al mercato italiano per tornare, io non dico alle 845.000 compravendite che si erano viste nel 2006, anno del record assoluto degli ultimi 20 anni probabilmente, sì. Ma adesso siamo a 110.000 case vendute nel trimestre da gennaio a marzo, quindi potremmo arrivare a fine anno a 400.000, 450.000, non so se quanto di più. Sì, il 2011 si è chiuso con 570.000 compravendite. La notizia positiva è che la propensione all'acquisto è molto elevata, nel senso che l'intenzione di comprare una casa sia dalle fasce alte, ma soprattutto dalle fasce medio-basse, è decisamente elevata. Quindi c'è una domanda di livello medio-basso, proveniente soprattutto da alcune fasce come gli immigrati, i giovani, che ha una forte propensione all'acquisto. Poi si scontra con la dura realtà, nel senso che abbiamo un tasso di disoccupazione elevato, abbiamo l'IMU che sicuramente ha scoraggiato una parte degli acquisti, e abbiamo soprattutto l'atteggiamento delle banche, estremamente selettivo nella concessione del mutuo, per cui è molto difficile l'accesso al credito, e soprattutto anche il valore concesso dalle banche, quando anche questo sia possibile, il fatto di ottenere un mutuo, non supera il 50% del valore complessivo, quindi comunque è necessaria una liquidità che non tutte le famiglie hanno a disposizione. Non ha citato nelle motivazioni che arrestano la compravendita la questione dei prezzi delle case in vendita, come mai? Beh, sicuramente è un altro dei fattori, perché mentre nel resto del mondo o comunque in alcuni paesi la crisi economica ha comportato un vero e proprio crollo delle quotazioni, in parte per la legge della domanda dell'offerta, in parte anche per un atteggiamento proprio da parte del governo con una ferrea volontà di calmierare un po' il mercato e anche di mantenere sempre una corrispondenza tra redditi medi e valori del mercato immobiliare, come ad esempio in Irlanda, in Italia i prezzi sono rimasti abbastanza alti, soprattutto nelle grandi città, per cui si parla di cali forti, ma in realtà poi se andiamo a vedere i valori ufficiali, i cali sono sempre modesti rispetto invece a quello che può incidere la crisi economica. Quindi certo, c'è una difficoltà di incontro tra la domanda e l'offerta. Certo. Ripeto, nella fascia medio-bassa, che poi è quella che aveva sostenuto il mercato negli anni di forte crescita. Esatto, quando la banca copriva il 100%, se non addirittura il 120% del valore dell'immobile. Esatto. Adesso non perché dobbiamo ritornare a quegli eccessi, perché anche quelli in certo qual modo hanno fatto male al mercato, poi anche con la tipologia di mutui che sono stati venduti in un certo periodo, molto tasso variabile, quindi le famiglie hanno affrontato l'esplosione dei tassi nel 2008. Detto questo, forse ci si potrebbe trovare in una posizione intermedia, speriamo che il mercato in questa direzione vada. Però le previsioni sono comunque abbastanza positive, nel senso che se effettivamente verranno portate a termine determinate modifiche normative, se effettivamente le banche ricominceranno a concedere prestiti in maniera un po' meno restrittiva, si prevede che l'anno si potrebbe chiudere con 630.000 compravendite, quindi di nuovo in aumento rispetto all'anno scorso. Insomma, allora diciamo che le banche dovrebbero comprare un po' meno titoli di Stato in Italia e tornare a fare un po' di più il loro lavoro, però questo è un altro scenario un po' complesso. Detto questo, mi è interessata molto la indicazione che ci ha dato prima la dottoressa Giannasso. La propensione all'acquisto è molto alta, però poi si scontra con la dura realtà. Bruno Vettore, gli operatori sul campo, che cosa dicono le agenzie immobiliari del vostro network? Effettivamente hanno questo riscontro molti clienti, molti possibili acquirenti che entrano nelle vostre agenzie, ma poi se ne devono ritornare indietro perché ad un certo punto il meccanismo si inceppa. Quali sono le ragioni più rilevanti che voi appunto riscontrate rispetto all'interruzione appunto della trattativa? Direi che l'analisi fatta fino ad ora è assolutamente fedele alla realtà e sono stati toccati tutti gli aspetti che incidono in qualche modo nella definizione di una trattativa. È chiaro che tutto si innesta in una incertezza generale, una poca sicurezza nel fare un passo, no? Nel divenire all'acquisto di un immobile, però io direi che tutto è prevalentemente condizionato in termini concreti, pratici, operativi, dalla difficoltà di accesso al credito. Teniamo conto che negli anni 2006-2007 una grossa fetta del mercato era coperto dalle fasce deboli, si era aperto anche un mercato per esempio degli extracomunitari nelle grandi città e tutto questo, le giovani coppie o le fasce più deboli accedevano al credito con una certa facilità, certo, che è misura importante, 80%, 90%, in qualche caso 100% su base anche trentennale. Io ricordo addirittura che c'erano dei mutui anche per 40 anni, anche un'esagerazione. Sì, c'è stata una fase in cui qualche banca ha venduto anche questo prodotto. Esatto, direi che i colleghi che operano nelle agenzie prevalentemente hanno questa difficoltà, perché poi non è vero che non c'è interesse, i telefoni squillano, diciamo le nostre agenzie sono spesso piene di appuntamenti, quindi direi che l'interesse per la casa è sempre molto molto alto. La problematica prevalentemente riguarda il credito e quello che sottolineava lei qualche minuto fa, anche il fatto che i prezzi, la diminuzione dei prezzi, quindi l'incrocio domanda ed offerta, non è forse corrispondente alle difficoltà economiche complessive, cioè chi ha comprato 5 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa non si è ancora reso conto che se vuole vendere oggi deve abbassare un pochino le prezzi. D'altronde la questione è proprio quella: se vuole vendere oggi, se non ha bisogno di farlo, è anche legittimo che attenda, che magari il mercato si risvegli ancora e che magari possa spuntare, magari non dico proprio esattamente il prezzo che ha fatto, ma comunque il livello più vicino possibile. Io adesso non riesco ancora a far intervenire Paolo Righi, perché poi volevo fargli argomentare anche bene quanto ha previsto per il settore immobiliare il decreto sviluppo varato venerdì scorso dal governo. Per la verità c'è un intervento molto importante ancora una volta per le ristrutturazioni delle case sulle quali appunto ci sarà un risparmio del 50%, perché si avventurerà nella riorganizzazione appunto del proprio ambiente domestico. Per il resto ci si aspettava forse qualcosa di più, proprio per ridimensionare magari l'impatto fiscale sulle compravendite. C'è tutto il tema molto importante anche dell'invenduto nel settore nuovo, di nuova costruzione. Quello è un grosso problema nel nostro paese, ancora sotto controllo, ma è il problema che ha portato in ginocchio la Spagna, per cui teniamolo sotto controllo. Crollano le vendite perché le banche non danno mutui se non con garanzie esagerate. Avrei intenzione, con un ascoltatore ci racconta, di acquistare con la mia compagna un appartamento di dimensioni più importanti per farne la casa della vita, ma visti gli spread bancari di questo periodo abbiamo deciso di posticipare a data da destinarsi, quindi acquirente interessato dato, ma che rinvia la decisione. E insomma, i messaggi sono tutti di questo tenore. Prima di sentire Paolo Righi, cominciamo con una testimonianza di un ascoltatore che è Andrea da Milano, che saluto. Andrea, buona giornata. Sì, buongiorno, buongiorno. Ascolti, io ho 34 anni e sono agente di commercio, quindi non ho un contratto. Volevo sapere come avere un po' delle dritte eventualmente sull'acquisto della prima casa, calcolando che poi non ho neanche la somma da anticipare, ecco. Quindi in quel caso lì dovrei fare un mutuo completo e poi evitare di mettere la mamma di mezzo, dato che insomma è una pensionata, per fare garante, insomma. E poi un'altra cosa, io comunque trovo scandalosi i prezzi che ci sono in Italia delle case, perché sinceramente posso capire in Francia, a Parigi, in Inghilterra, ma ci sono dei prezzi che sono veramente sconcertati. Che taglio le interessa, Andrea? Lei è molto giovane, guardi, e non credo che voglia andare oltre il bilocale a Milano, perché già no, lì è abbastanza... ma adesso io già vivo in un bilocale e sono in affitto. Sinceramente posso spostarmi eventualmente in una casa un pochettino più grande, ecco, insomma, almeno perché adesso io sono in 60.000 quadrati. Quindi volevo acquistare un qualcosa di più grande. Ecco. Allora, Andrea, grazie molte. Paolo Righi, prima di sentire il suo commento sul decreto sviluppo, le faccio fare il suo lavoro, l'agente immobiliare. Una persona che entra in un'agenzia e fa un ragionamento di questo tipo: intanto non ho soldi da anticipare e quindi devo fare un mutuo integrale. Andrea probabilmente non ha sentito nella prima parte del programma né come stanno andando le cose da qualche anno nel nostro paese con le banche, che se prima davano il 100% del valore dell'immobile, adesso hanno dimezzato la loro disponibilità. Oltre a questo, che tipo di consulenza farebbe a questo ascoltatore? Guardi, attualmente il mercato bancario non recepirebbe la richiesta di mutuo. Neanche lo riceve, cioè proprio no, parleranno di... non è ricevibile, perché oggi il loan to value necessario per posto 100.000 euro, mi spiego meglio, la cifra che le banche richiedono come apporto dell'acquirente è di circa il 30-40%, quindi oggi le banche in Italia finanziano dal 60 al 70% del valore immobiliare e possono salire solo a fronte appunto di garanzie quali quelle che citava prima Andrea, la mamma o i familiari o meno. Quindi tra l'altro, Righi, quando dice 70% del valore dell'immobile o della cifra richiesta? Del valore dell'immobile. Dell'immobile, ecco. Del valore dell'immobile. E quindi è per questo che noi, proprio per dare risposte a queste esigenze, che abbiamo definito il decreto sviluppo un decreto che nella sostanza sviluppa ben poco, perché noi avevamo richiesto al governo, nella prima bozza c'era l'intervento per abbassare le tasse sulla compravendita immobiliare, per detrarre completamente gli interessi passivi dai mutui e per dare un'agevolazione a chi, come tutti gli italiani vogliono, a chi intende acquistare casa. Quindi questo per l'ascoltatore Andrea è un momento brutto e comprendiamo perfettamente quelle che sono le difficoltà di accesso alla casa e stiamo cercando come federazione di apportare modifiche, ecco, a questo con le vostre proposte. No, tra l'altro stavo pensando all'approccio di Andrea, che poi è molto giovane sicuramente, ma non giovanissimo, quindi magari forse anche per questo un po' di ingenuità nell'argomento la mette. Andrea, magari, visto che adesso non la può comprare perché la dinamica è quella che è, può sicuramente cominciare ad accantonare qualcosa e non presentarsi neanche fra qualche anno in banca completamente sguarnito di un piccolo anticipo, perché poi anche se il mercato dovesse andare meglio, senza poter anticipare nulla è abbastanza difficile che anche in quel caso la banca ti aiuti, perché se anche la situazione si dovesse rasserenare non è che vedremo dei miracoli nel giro di 2-3 anni, quindi questo deve essere secondo me molto chiaro. Poi sono suggerimenti di buonsenso, non è che posso andare a fare i conti nelle tasche degli ascoltatori, giustamente, oltretutto lui ha anche un libero professionale, un agente di commercio, quindi sicuramente avrà anche una marea di tasse da pagare, poveretto, per cui ecco, se comunque per il momento il sogno della casa non si può coronare, ci si può avvicinare a questo obiettivo con gradualità e cominciare ad accantonare qualcosa e quindi magari avere tra qualche anno il denaro per poter anticipare per questo acquisto. Vettore, che ne pensa? Vuole anche lei fare il consulente immobiliare per il nostro ascoltatore? No, lei è già stata molto chiara. Io è un tema che mi piace tantissimo, guardi, se io potessi mi comprerei 200 case a dispetto dell'IMU, veda un po'. Sì, beh, poi dopo bisogna anche dire che comprare casa non è che lo ordina il medico, insomma, si può anche trovare un buon affitto e magari aspettare tempi migliori, ecco, anche se è giusto fare considerazioni. Ma perché l'italiano ha questo... non dico ossessione, perché per me comprare casa è stato il coronamento, poi piccola, tutto quello che vuole, Vettore, però perché l'italiano è così attaccato al mattone, alla casa, rispetto invece ad altri paesi dove non c'è tutta questa relazione, questo legame? Beh, perché naturalmente nella caratteristica del nostro popolo, insomma, e anche di altre nazioni come la Spagna o come altre nazioni, direi che proprio è insito nel nostro DNA la ricerca di radici e la ricerca di stabilizzare il prima possibile la propria residenza. Ma devo dire che sotto un altro aspetto questo rende anche molto difficile a volte far comprendere che è importante incrociare domanda ed offerta, perché poi chi compra casa se ne affeziona molto e prima di venderla richiede un prezzo troppo alto, in questo momento obiettivamente non trova un acquirente, quindi questo è anche un motivo per cui a volte le compravendite si rallentano, si arenano. Allora, Paolo da Parma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci racconti intanto. Adesso, buongiorno a lei e grazie. Volevo dirle questo, io ho sentito adesso quel signore adesso dire che appunto una cosa che stavo dicendo io. Il problema è le banche, giusto che diano il 60-70%, lo sappiamo, non possono dare il 100%, è così. Il problema vero che nessuno dice, nessuno ha detto, è che il costo delle case è troppo alto. I proprietari vogliono straguadagnare. Le agenzie portano dei prezzi altissimi. Io ho un figlio, 36 anni, fa l'agente di commercio. Sono andato in giro per lui, per le agenzie, per vedere come comprare. Io sono in pensione, ho tempo e faccio questo. Parlo con la gente che esce dalle agenzie. Il problema è non sono le banche che non danno il mutuo lo danno al 60-70%, è giusto il giusto prezzo. Certamente, ma su questo sono d'accordo alto, con lei. Mi scusi, è troppo alto il prezzo delle case. Ora, guadagnare il doppio, c'è chi ha investito, mi ha risposto un proprietario, ma io ho investito, voglio guadagnare, ma quando tu hai raddoppiato il tuo guadagno, perché devi triplicarlo, quadruplicarlo? Esatto, Paolo, il tema è capire chi ha raddoppiato il suo guadagno, perché se questo acquisto è stato fatto nel periodo del boom tra il 2004 e il 2006, questo proprietario non ha guadagnato il doppio, questo proprietario in questo periodo da allora potrebbe al limite rifare il prezzo che ha sostenuto per acquistarlo, ha raddoppiato chi l'ha acquistato credo nel decennio precedente. Non lo so, dottoressa Gianasso, mi vuole aiutare un po' lei su questa statistica, per cui magari chi vende adesso e ha acquistato nel 2006, 2007, 2005 non ha raddoppiato esattamente. No, sicuramente no, questa è la legge della domanda e dell'offerta, nel senso che nel periodo del boom immobiliare in Italia come in tutto il mondo si vendeva qualunque cosa, qualunque cifra, e quindi è chiaro che chi ha pagato determinate cifre non è disposto a scendere, per cui c'è un po' una mancata convergenza tra i venditori che non hanno nessuna intenzione di diminuire le proprie pretese e i compratori che non sono più disposti a spendere determinate cifre, quindi aspettano momenti migliori, quindi c'è proprio questo atteggiamento di attesa. Tra l'altro, d'altronde, come dar torto, è anche ragionevole che ognuno, se l'ha fatto come investimento, un certo tipo di acquisto. Certo, i prezzi alti, appunto, mi veniva in mente l'esempio che abbiamo citato prima dell'Irlanda, dove il governo cerca di contenere i prezzi proprio perché non siano assolutamente squilibrati rispetto ai redditi, e si calcola, parlando di uno stipendio medio e di un alloggio medio, si calcola che in Irlanda ci vogliono 3 anni di stipendio per comprarsi una casa e in Italia ce ne vogliono 12, e quindi questo già spiega qual è il problema. Certo. Poi il primo ascoltatore parlava di Milano, che ha una situazione ancora diversa rispetto alle altre città, perché ha quotazioni che crescono più decisamente in misura maggiore rispetto alla media italiana, ha una domanda che continua comunque a essere elevata, perché non è soltanto una domanda locale, ma è anche una domanda di persone che vengono a lavorare qua, per cui persone che vengono a lavorare, persone estere o persone italiane che però comprano non solo per uso diretto ma anche per investimento, e quindi i prezzi restano alti. Insomma, Roma e Milano sono delle città che hanno delle dinamiche dei prezzi abbastanza individuali, sganciate dalla logica del resto del mercato. Però Paolo Righi, l'ascoltatore, ha richiamato anche la responsabilità dell'agente immobiliare nella determinazione del prezzo della compravendita. È abbastanza certo poter dire oggi che in passato anche voi avete fatto la fortuna di un mercato immobiliare che volava e sicuramente non invitavate tanto in passato i proprietari a mettere sul mercato degli immobili a prezzi che qualche volta erano assolutamente fuori luogo. Posso però dire per certo, perché ne conosco tanti di suoi colleghi, che in questo momento anche voi state lottando molto con i proprietari che a volte hanno delle richieste veramente assolutamente fuori da ogni logica. È così? Oggi, le è piaciuta questa mia difesa? Sì, no, no, ma non è una questione di difesa, è che oggi si vende solo al giusto prezzo. Io però voglio un attimo riportare il discorso sul tema che degli ultimi 10 anni in cui l'investimento immobiliare è stato visto come paragonato all'acquisto mobiliare, cioè di azioni. Bisogna comprendere che la casa della vita, non deve essere vista come un acquisto spot su cui guadagnare i 20, 30, 50, 100 mila euro. Oggi l'investimento della casa è un investimento di medio-lungo periodo, quindi nessuno oggi acquistando si attenda guadagni stratosferici. Un'altra cosa che è necessario ribadire è che i prezzi sono dati anche dai costi di produzione. Ricordiamocelo sempre, oggi costruire in Italia costa tantissimo per una serie di motivi, quindi il costo di costruzione può variare dai 1200 ai 2000 euro al metro quadro in periferia, e laddove ci sono costruzioni più complesse può arrivare fino ai 2000-2300 euro, quindi attenzione a incolpare le categorie di guadagnare il doppio, o i costruttori o le agenzie immobiliari, intanto perché le agenzie immobiliari sono parte terza e quindi non fanno altro che mettere in contatto le parti che decidono liberamente qual è la cifra. Noi forniamo una consulenza sul mercato e sul dato, e conseguentemente anche i costruttori, ha ragione l'ascoltatore Paolo dicendo, mio omonimo, dicendo che forse lui calcola i prezzi inavvicinabili, ma il dato strutturale che citava anche la dottoressa Giannasio confrontando con l'Irlanda è che gli stipendi italiani, che sono alti come gli altri, come quelli tedeschi, il problema è che hanno un carico fiscale del 50%. Oddio, non sono esattamente alti come gli stipendi tedeschi, quelli degli italiani, Righi. Non no, apriamo... no, no, dico il lordo, il lordo. Il lordo è esattamente, c'è una differenza del 5-10%. Però dobbiamo vedere, vabbè, lì adesso non possiamo affrontare il tema del cuneo fiscale, di quello che poi realmente le famiglie si mettono in tasca, però lei come sa, insomma, un operaio della Volkswagen prende molto meno di un operaio di Mirafiori. Se proprio vogliamo andare all'estremo a fare il paragone con la casa automobilistica, mi stavano dicendo molto di più. Sì, allora, detto questo, andiamo ai costi delle case in Italia e ritorniamo appunto con i nostri ospiti. Tra l'altro, Righi, visto che parlavamo di mercato immobiliare, di settore del nuovo, quanti immobili invenduti nuovi ci sono nel nostro paese? Allora, oggi tra nuovi terminati, costruiti, e quelli in corso di costruzione, i cui cantieri sono bloccati a causa della crisi, abbiamo circa 1.200.000 immobili da piazzare sul mercato o che devono terminare la costruzione. Un acquirente può chiedere uno sconto anche ad un costruttore? Perché c'era un ascoltatore che ce lo stava raccontando, che è riuscito a spuntare un 20% di ribasso sul prezzo finale. Sì, se da un lato nel mercato dello scambio tra privati i prezzi sono molto bloccati, oggi i costruttori, con rallentamento delle compravendite, il numero delle compravendite, e con le banche che pressano per rientrare dell'investimento, infatti i tempi di vendita si stanno allungando tantissimo, oggi i costruttori sono molto più sensibili laddove possono a fare degli sconti, e quindi è un mercato tutto da esplorare per i consumatori. Un ascoltatore ci chiede, Gabriele, che cosa intendevo prima quando ho detto monitorare l'invenduto, questo, cioè fare un po' un controllo, conteggiare quanti immobili non venduti ci sono sul mercato. Adesso parlavamo appunto del settore del nuovo, Gabriele, magari era un concetto un po' troppo complesso, me ne scuso, spero di averlo tradotto correttamente. Pasquale da Latina, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie. Senta, io volevo dire questo, io ho un figlio ingegnere informatico che ha un buono stipendio e la banca non riesce ad accendere un mutuo perché è troppo giovane come anzianità di servizio. Quanto chiede suo figlio Pasquale? Quanto? 200.000 euro. Non riuscite ad anticipare nulla? No. Il problema è quello che voi chiedete di coprire integralmente l'acquisto della casa, per cui ma Pasquale, non è un problema di suo figlio che lavora da poco tempo, il problema è che la banca questo rischio non se lo prende più. Bruno Vettore, voi che tra l'altro adesso avete il network immobiliare naturalmente, però molto spesso anche le agenzie, ci sono dei network di mediazione creditizia alle quali le agenzie si appoggiano appunto e che chiaramente cercano di agevolare, no? Il dialogo tra possibile acquirente di un'abitazione e il settore del credito. Che cosa ci dice da questo punto di vista, appunto? Come spingete, come fate in modo che il direttore di banca si convinca magari ad essere un po' più generoso, anche se adesso non c'è nessuna voglia di esserlo? Beh, diciamo questo, che chi è, generalmente le aziende organizzate, i network hanno delle convenzioni, quindi delle vie preferenziali di consulenza migliore, insomma, con alcuni istituti bancari. Chiaramente la situazione è molto complicata per tutti, però ecco, io direi anche che prima di escludere ogni possibilità di accesso al credito bisogna armarsi di pazienza, interpellare più istituti, magari proprio attraverso la consulenza di un mediatore creditizio. Ecco, quindi io direi, escludendo i casi limiti, quindi quelle proposte non ricevibili, come diceva il collega qualche minuto fa, io direi, insomma, prima di arrendersi non drammatizzerei fin da subito. Chi ha un reddito, chi ha un minimo anticipo, non si arrenda, perché è vero che alcuni istituti bancari hanno veramente chiuso i cordoni della borsa, è altrettanto vero però che altre banche hanno dei budget stanziati. Però insomma, su una casa che vale 200.000 euro, erogare tutti i 200.000 euro, la vedo oggi come oggi, è un'operazione impossibile. Per cui Pasquale, guardi, visto che suo figlio, bravo ingegnere, guadagna anche bene, gli dica di avere pazienza ancora per qualche anno e parte di questo stipendio lo accantoni, faccia crescere questo gruzzoletto. L'altra domanda potrebbe essere: dove lo metto per farlo crescere un po', visto che in questo momento tutte le possibilità di investimento non ci danno nessuna soddisfazione? Magari, non lo so, un conto di deposito. Adesso io così la sparo là, ma non voglio dare una consulenza in questo senso, però magari, ecco, prima della casa, che faccia fruttare un pochino questi soldini in modo tale di trovarsi un po' più pronto nel dialogo con la banca quando sarà necessario. Rapidamente Marco da Treviso, buongiorno, perché ci vuole raccontare di una bella iniziativa di questa provincia a sostegno di chi vuol comprare casa. Sì, buongiorno. Volevo segnalare che la provincia di Treviso ha fatto una convenzione con gli istituti di credito dove, le faccio un esempio, uno spread del 2% per un variabile a 20 anni con l'Euribor allo 0,68 viene un tasso del 2,68. Uh-huh. E ancora con l'accordo con i notai, il notaio sia nell'atto di compravendita sia nell'atto del mutuo deve applicare la tariffa minima. Certo. Bisogna essere residenti in provincia di Treviso. Certamente, quindi ci sono insomma delle iniziative sul territorio che in qualche maniera vogliono tenere un po' sveglio il mercato immobiliare. Magari qualche volta non ci pensiamo ad informarci, a documentarci su queste iniziative. Detto questo, ecco, Righi, magari vengo a lei per l'ultima considerazione. Qualche volta anche gli enti locali in qualche maniera fanno quello che il governo centrale non riesce a fare in termini strutturali, no? Però questa mi pare una buona iniziativa. Assolutamente sì, e dirò di più, non solo per la provincia di Treviso, ma la Regione Veneto sta stanziando a fondo perduto delle cifre che vanno da 20-25 mila euro proprio per l'acquisto della prima casa. E sono attività che le regioni in questo momento, alcune regioni stanno valutando di mettere in campo proprio perché sentono la difficoltà da una parte dei costruttori che non riescono a vendere il loro prodotto e dall'altra dei cittadini che hanno la necessità e giustamente anche la voglia di mettere al riparo i loro risparmi attraverso il settore immobiliare, quindi attraverso l'acquisto di una casa. Righi, naturalmente questa l'ultima riflessione in 10 secondi, voi siete positivi sulla ripresa del mercato? Noi siamo assolutamente positivi perché questo è un mercato che si riposizionerà sicuramente non più sulle 840.000 vendite, ma si stabilizzerà sulle 550, quindi dobbiamo fare i conti con queste cifre, e siamo positivi perché oggi l'investimento immobiliare garantisce ed è l'unico che garantisce veramente l'allocazione dei risparmi delle famiglie, quindi anche noi pensiamo che settembre in poi ci sia una lenta ripresa del mercato immobiliare, del numero delle compravendite, naturalmente devo chiudere rapidissimo, insomma è positivo che il governo faccia ancora il settore qualche intervento in più. Pillole INPS per conoscere l'ultima riforma delle pensioni, continuiamo a parlare delle regole valide per quelli che vengono definiti lavori usuranti. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. I lavoratori che svolgono lavori usuranti hanno diritto a una forma particolare di pensione anticipata. Quali sono le caratteristiche di questa pensione? Prima della riforma, i lavoratori che svolgevano lavori usuranti avevano diritto ad andare in pensione d'anzianità con requisiti ridotti di età e di quote di 1 o 2 anni rispetto ai requisiti richiesti per le pensioni di anzianità ordinarie. Dopo la riforma, i lavoratori impegnati in attività usuranti hanno diritto semplicemente ad andare in pensione di anzianità sulla base dei requisiti che erano previsti in via normale per questo tipo di pensione. Il bonus consiste nella conservazione di una forma di pensionamento che è stato abolito per tutti gli altri. L'Alba Danaio è finito, noi ci sentiamo domani, a tutti buona giornata.